pictures from a thousand years of battle, and I think it's such a bore. I walk New Orleans with a knife, like Nike hidden out of sight. But I'd be useless if they jump. Eccoci qui, The Killing Type, Amanda Palmer, in apertura di Sisyphus is Blooming, puntata numero 35, appunto in apertura del martedì femminista e lesbico autogestito del 16 aprile 2013. Allora, parlavamo prima con la compagna con cui mi accompagnavo nell'apertura di questo concertone, insomma c'erano un po' tantissime compagne da tutta Italia che erano venute a vederla qui, che l'Arcana si era esibita anche a Bologna, insomma, però Roma e il Forte comunque era un momento molto importante. importante anche per rivedersi assieme. La prima cantante di oggi per cominciare è Sisterhood, di cui vi ricordo 06 49 17 50 è il numero per farvi sentire durante il martedì, durante Sisterhood, ma durante tutto il martedì qui a Radio Onda Rossa. E il riferimento è www.twowomenshow.wordpress.com, il blog dove mettiamo podcast e playlist, oltre ovviamente a mfla.noblogs.org. Prima artista di oggi si chiama Waxahachie, è il progetto solista con questo nome un po' particolare di una cantautrice che si chiama Katie Crutchfield, che dopo aver lasciato una band rock abbastanza simpatica, divertente, anche con un discreto successo, che si chiamano P.S. Eliot, ha deciso di cominciare un progetto da sola, e quindi ha messo su un primo album, una split cassette, che è appunto sostanzialmente una cassetta, proprio una tape split, cioè divisa, con un altro artista, nel suo caso con Chris Kelvin, e per la Plan It X Records, e ha attirato una certa attenzione, una discreta attenzione nell'ambito della musica indie, riuscendo poi a registrare un vero album di debutto, questa volta con la Don Giovanni Records l'anno scorso. L'album, il primo album vero che è riuscita a fare, si chiama American Weekend, ed è anche questo in effetti un bedroom record, appunto uno di quegli album che vengono registrati, come si dice, in camera da letto, che significa poi in realtà un po' tutto da sola nella propria casa, con quelli che sono gli strumenti di registrazione che si possiede. Così come il primo album, anche il secondo, che è uscito da pochissimo, questa volta per la Wichita Records, che pur essendo anch'essa una indie label, un'etichetta indipendente, è un po' più corposa, più nota, quindi permette anche magari un po' di maggiore libertà e di maggiore diffusione sia in America che in Europa. E chiaramente la Wichita ha sentito l'American Weekend, non se l'è fatta scappare. L'album si intitola Cerulean Salt, è uscito da pochissimo, lei lo sta per promuovere in Europa come spalla del tour di Tegan and Sarah, che appunto sono due artiste che conosciamo bene tra le femministe. Lei si chiama Waxahachie e il pezzo che ho scelto in apertura è Brother Brian. Share a cab to the park and you let me speak a beer. Waxachi, il pezzo si intitolava Brother Brian, scusate anche per la voce di oggi, ma insomma l'influenza, il colpo di culo dell'influenza di questo inverno mi ha preso anche me. Prossima band, loro si chiamano The Mallard, e diciamo che ci permettono di fare una piccola parentesi per raccontare un po' quelle che sono le artiste e gli artisti di una etichetta indipendente che si chiama americana, che si chiama Castle Face Records. È un'etichetta molto interessante, molto piccola, devo dire, che ruota intorno a uno dei componenti di una band che con cui poi chiuderemo questa parentesi. Si chiamano The OCs, che forse avete già ascoltato qualche volta da queste parti. La prima band si chiama The Mallard e sostanzialmente ha un progetto che ruota intorno alla figura di una musicista che si chiama Greer McGettrick. È una veramente un'interessante chitarrista e batterista che ha registrato da sola anche lei, suonando un po' tutto, la prima omonima cassetta anche lei, portando questo progetto in giro e poi facendosi all'inizio faceva addirittura delle performance da sola, quindi suonando la chitarra e attaccando la batteria ai piedi, quindi insomma suonava la gran cassa e ogni tanto riusciva a dare un colpo di rullante. Poi ha chiesto finalmente, perché evidentemente era anche un po' troppo dispendioso fare tutto da sola, aiuto a Dylan, il suo amico, che è venuto ad aiutarla a suonare un po' la batteria nelle performance live, e piano piano è venuto fuori poi un duo e poi un trio che per la Castle Face Records è riuscita appunto a registrare un vero e proprio album. È un album decisamente insomma pieno di garage rock, quindi insomma una musica che io amo molto spirito che Graham mette nella sua musica, e mi piace anche il fatto che i componenti di questa band, che appunto ripeto ruota intorno a lei, siano sempre molto cangianti, molto mobili. Insomma, l'approccio almeno nella musica un po' più da poliamore mi piace di più che sicuramente nelle relazioni personali, quindi nella musica per me va benissimo. Quindi Greer McGettrick, un nome non facilissimo da ricordare, la band si chiama The Mallard e il pezzo che ho scelto per voi preso dall'album che è uscito per la Castle Face Records, si chiama Yes and Blood, si intitola I Listen to the Lyrics Last. The Mellers, questo era il pezzo, si intitola I Listen to the Lyrics Last, e continuiamo questa passeggiata, questa insomma conoscenza di questa piccola etichetta Castle Face Records, dove tra l'altro insomma se vi fate un giro sul loro insomma sul loro sito, dove ci sono anche la presentazione delle varie band eccetera, vi rendete subito conto, se guardate un po' la line up delle varie band, che c'è una bellissima atmosfera, un'atmosfera molto da amici, da gente che si conosce, che lavora insieme, che quindi collabora ai progetti le une degli altri eccetera. Prossima band si chiamano Wax Idols, è una band molto molto interessante. L'album è uscito, l'ultimo loro album, il secondo album, si chiama Discipline Desire, ed è uscito il 6 aprile, quindi da pochissimo, per la Slumber Records, mentre il primo album uscito appunto per la Castle Face di questa band, che ha come diciamo leader chitarrista un artista assai intrigante, che si chiama Heather Fedewa, altre volte Heather Fortune, la sentite, la trovate anche sotto questo nome. È molto particolare, è nata in un paesino sperduto nel Michigan, racconta in un'intervista di essere cresciuta come un'adolescente in questo paese in cui odiava praticamente tutto ciò che si muoveva intorno a lei nel raggio di 20 miglia, tranne qualche amico strano con cui si sballava tutto il giorno, ascoltava musica, insomma capiamo bene, almeno io capisco, venendo da una piccola città del sud, come si sentiva. Poi a 16 anni è andata via di casa, ha raggiunto per conoscere il padre biologico, che viveva da un'altra parte, credo a Detroit, ma dopo pochi mesi va via, lei dice che era veramente una testa di cazzo, e se ne va a vivere a Boston in una casa occupata, piena di punk e di gente che fa musica, e lì conosce appunto le persone con cui formerà la sua prima vera band, che si chiamano Hunks and His Punks, che tra l'altro appunto è una band piuttosto conosciuta. Poi, entrando a far parte del circuito della Castle Face Records, entra nella band che si chiama Blasted Canyons, che tra l'altro sentiremo più tardi, ma secondo me appunto dà il meglio di sé in questo progetto, che è appunto il progetto più suo, che si chiama Wax Idols, e che nel quale praticamente anche lei ha registrato un po' tutto nel primo album, che si intitolava No Future. Il primo album, No Future, ha avuto un tantissimo successo, e anche se in qualche modo aveva diciamo così una impronta un po' acerba, un po' troppo anni 90, un po' troppo Kill Rock Stars, no? Quel tipo di musica lì degli anni 90, e quindi c'era grandissimo talento che si vedeva insomma in questa artista e in questa band, ma qualcosa di ancora molto acerbo. Secondo me, e secondo anche molta altra critica, Discipline and Desire, quindi l'album da cui ho tratto il pezzo che sto per farvi sentire, è probabilmente quello in cui riesce a tirare fuori il meglio di sé, e quindi insomma a diventare una vera e propria artista con una sua impostazione, una sua caratteristica. È molto carina la chiusura dell'intervista, da cui vi ho tratto alcuni brani, in cui lei dice: un sacco di gente pensa di me che io sia una terrible bitch, così dice. Ma sinceramente penso di essere soltanto una che dice la verità, che dice quello che pensa direttamente, non gliene frega nulla di quello che, a me non me ne frega nulla di quello che gli altri pensano di me. Lei si chiama Heather Fortune, la band si chiama Wax Idols, e il pezzo si intitola When It Happens. I was listening in. E allora, questa era una Wax Idols, spero che vi piaccia questo sound, che nella prima fase, nella prima parte di questa puntata, insomma, ci concentreremo su questa etichetta e quindi, insomma, bene o male rimarremo su questi suoni, anche se adesso ci spostiamo su qualcosa di un po' più, come posso dire, trash, un po' più strano, un po' più indefinibile da un punto di vista musicale, per quanto possa essere la musica definibile. Loro sono Blast Canyons ed è appunto una band composta principalmente da Heather Fedewa, anche Wax Idols, Adam Finken, Matt Jones e ogni tanto con partecipazione di vari altri musicisti. Insomma, non è una band con una line-up precisa. Il loro primo album omonimo ha avuto un discreto successo, così insomma si sono fatti coraggio, si sono rimessi insieme e hanno messo su la loro seconda uscita, che si chiama Second Place, ed è questo album che traggo questo pezzo molto carino che si intitola Blood on the Wall. Loro sono Blast Canyons. E spero, insomma, di avervi fatto capire quella che secondo me è l'atmosfera che si respira in questa etichetta. Quindi, insomma, un grande casino, molto divertimento, molto scambio di strumenti, idee e voci. Nuovo album per chiudere questa parentesi, Castle Face Records, è diciamo della band che fa capo a un po' anche la mente che sta dietro questa etichetta, che è un'etichetta molto piena di artiste, quindi insomma un'etichetta indipendente che ha una grandissima attenzione alla musica di donne. Lui si chiama John Dwyer e all'interno di questa band c'è una musicista, una tastierista e una percussionista di cui adesso non ho sotto mano il nome, ma esatto, Bridget Dawson, scusatemi, che è anche una delle più amate e apprezzate nelle sue esibizioni, che si alterna alla voce con John Dwyer. Quindi insomma un pezzo importante di questa band che si chiama The OCs. È appena uscito proprio oggi Floating Coffin, che è appunto il secondo album di questa band, forse una virata dall'iniziale pop folk psichedelico a qualcosa di un po' più duro, di un po' più forse anche di un po' più preciso musicalmente, mi direte voi. Qualche giorno fa era uscito l'8 febbraio era uscita la canzone che lanciava l'album, ma ascoltandolo io ho scelto per voi invece questa Toe Cutter Thumb Buster. Loro sono The OCs. One, two, three. TOC's Toccata Thumb Buster era appunto l'ultimo pezzo che in qualche modo ci ha fatto di questa piccola carrellata di band, di artiste che sono sotto la Castle Face Records, insieme alla Castle Face Records che ha appunto la sua base in California. Beate e beati loro, e noi invece appunto da questa viuzza di San Lorenzo in Roma salutiamo anche chi ci segue in streaming su www.ondarossa.info. E vi ricordo 06491750 è il numero della radio appunto che oggi, con il quale oggi potete comunicare con la redazione del Martedì Femminista e Lesbico Autogestito e tutte le trasmissioni che, come sapete, si succedono fino alle 11 di questa sera. Viriamo decisamente genere, viriamo decisamente musica. Pochi giorni fa è uscita insomma una traccia che si chiama Nina, e la nostra Nene Cherry, che appunto sta dopo il bel lavoro anche molto molto interessante, molto sperimentale di The Cherry Thing, e poi i remix, l'EP di remix che è uscito seguendo all'album, in parte curato da una persona, insomma un artista che ci piace molto, Kieran Ebden, anche conosciuto come Fautet, insieme a Kieran Ebden e Africa Baby Bam, che è appunto un personaggio che fa capo a Jungle Brothers, hanno messo su questo nuovo progetto. Quindi insomma pare, si dice, si vocifera che Nene Cherry stia lavorando con Ebden, quindi con Fautet, per una prossima lunga vera insomma lavoro, quindi collaborazione un po' più sostanziosa. Intanto ci ascoltiamo questo brano e poi mi direte cosa ne pensate. Nene Cherry più Africa Baby Bam, e il pezzo si intitola Nina. My life is like an island, beautiful palm trees. No clouds hanging over me. Standing on the beach, looking at the seas. All the subtle victories, still it's time for me to seize. Inner peace, I find the key, I move the compass by degrees. And where's home? Far away from home, free to roam. And it's time to swim, so I jump in. And the water's warm. Like hot tea. Got me. My life is like an island. It always keeps me smiling. 'Cause I'm free from all its distractions. It's social interaction. And not in any way divided into fractions and pieces. 'Cause my life is like an island. Yeah. My life is like an island. My life is like an island. It always keeps me smiling. Yeah. See the birds flying through the sky. So high. And in the picture before my eyes, I see my heart flying through the sky. I lay down, bury my hand in the sand, grain of sand. Rome wasn't built in a day anyway. Sea wash over me any day. Far away from home, where is home? Home is free to roam. Avenue A, Avenue B, Avenue C. Looking at the sea, far away from home. Where is home? Where the water is warm. And the night falls and all I can hear is the sea. And I take another sip of a cool drink, and I fall fast asleep. And I wake up in the morning yawning, and it's just me all by myself on the beach. And that's just the way I like it. 'Cause my life is like an island, and it's so. It always keeps me smiling, and I'm so. And you're so beautiful. 'Cause your life is just like mine. And my life is just like yours. My life is like an island. My life is like an island. Ain't no ships coming across this sea to pick up me. 'Cause I'm free. So beautiful. So beautiful. So beautiful. My life is like an island, island. It always keeps me smiling and I'm so. My life is like an island. It always keeps me smiling and I'm so. My life is like an island. It always keeps me smiling and I'm so. life is like an island. It always keeps me smiling, and I'm so. I was watching bitches brew wine for breakfast, distracted. Bombs dropping around the corner. Yesterday, I laid down a grain of sand and I built a city. Rome was burnt in a day. A tower block of sensation. Every man is an island. Anyway, city beat my ass. City beat all of me. Ton of bricks to cash reality. My life is like an island. It always keeps me smiling, and I'm so. Insomma, questa Nina di Nonna Cherry, Africa Baby Bam, non ci sembra niente male, insomma, quindi aspettiamo di ascoltare qualcos'altro, speriamo, insomma, in questa direzione. Prossima band si chiamano Kate Boy, è un quartetto di Stoccolma, loro fanno elettropop. Alla fine dell'anno scorso, in giro sulla rete, insomma, chiaramente all'attenzione di magazine online specializzati, c'erano un paio di singoli di questa fantomatica band Kate Boy, che insomma sono stati anche remixati durante l'inverno da DJ e DJ, e quindi insomma tutti quanti hanno cominciato a chiedersi chi si celava dietro questo nome, una band, un produttore, una produttrice. In realtà poi alla fine abbiamo scoperto, si scopre che sono quattro componenti appunto di Stoccolma. In un intervista che leggevo qualche giorno fa, sono, non vi dico tutti i nomi, comunque Ampus, Kate, Marcus e Oscar, che sostanzialmente dicono facciamo tutto insieme, dal produrre, lo scrivere pezzi, produrli, suonare scambiandoci appunto gli strumenti tra di noi. Quindi insomma, in realtà quando abbiamo dovuto poi, avendo pronti dei pezzi, scegliere un nome per una band, non ci è sembrato strano pensare di inventare un altro elemento. Quindi Kate Boy in realtà è proprio il loro quinto elemento della band, che è una specie di risultato, di summa di loro quattro. Non è un caso che in video che accompagna appunto uno di questi singoli che si chiama Into Your Eyes, c'è questa sorta di ombra, di figura, di silhouette che non si capisce bene cos'è, che loro dicono appunto il quinto elemento è androgeno, non ha genere, e che in qualche modo appunto riprende questo concetto che ha dato il nome alla band. Kate August, che è anche la voce di Kate Boy, è una musicista di origine australiana che appunto stranamente si era trasferita a Los Angeles e poi ha pensato bene di andare a Stoccolma, sostanzialmente perché l'elettropop più interessante, più contemporaneo, in realtà si fa dalle parti di Stoccolma. Quindi evidentemente, insomma, da Los Angeles a Stoccolma è un bel viaggio. Insomma, quando lei racconta è arrivata a Stoccolma un paio d'anni fa, in cerca appunto di questa scena, ha trovato tre elementi che aspettavano lei per chiudere il cerchio e mettere su appunto questo gruppo. E allora io penso questo pezzo sia molto bello, è uno di questi due singoli che ha riscosso notevole successo e che dà il titolo all'EP che appunto ha girato fino adesso. Loro stanno facendo molti live in giro e preparando, come hanno detto in questa intervista, il loro primo vero album. Loro sono Kate Boy, il pezzo si intitola Northern Lights. You even in my bones. ed eccoci qui, appunto questo era il pezzo, il singolo Northern Lights di Kate Boy. Poi mi direte insomma se vi è piaciuto, vedo che insomma chiacchierate sul Sister Hoodies Blooming di Facebook. Allora stiamo per chiudere, anche perché insomma ci sono molti appuntamenti, molte cose da raccontare nell'immediato, nell'agenda di Atti e Misfatti. In particolare appunto fra poco parleremo con le compagne di Lucia e Siesta, che hanno subito un'intimidazione poliziesca la settimana scorsa, quindi insomma ci racconteranno cosa è successo e anche insomma cosa possiamo e cosa stanno organizzando, cosa possiamo fare e cosa stanno organizzando per respingere questa situazione. Intanto io vi lascio, Donna Sonica vi saluta e vi lascio con sicuramente la cosa più interessante che ho ascoltato negli ultimi tempi. Lei incide per la Yum Sums Records e appunto spulciando tra le nuove cose uscite in questa etichetta ho ascoltato questo pezzo che mi ha assolutamente catturata. Lei si chiama Banks, non conosco il suo nome, è una musicista, un artista che appunto ha questo progetto solista, decisamente Banks nel senso di banche, non è proprio una grandissima scelta come nome, visto che uno alla ricerca sulla rete è praticamente impossibile da trovare, quindi insomma se volete vedere com'è, anche perché in giro c'è un video di lei, dovete magari mettere Banks con la K e poi Before I Ever Met You, che è appunto il pezzo che vi faccio ascoltare. Appena cominciato a girare questo pezzo ci sono stati tantissimi accostamenti, soprattutto per la voce, il suo modo di cantare, molti hanno pensato ai primi Portishead e decisamente insomma c'è qualcosa di lei e del lavoro che sta mettendo in giro che è molto molto molto simile a quel tipo di musicalità. Quindi Donna Sonica vi saluta, Sister Hoodies Blooming finisce qui e vi faccio ascoltare come ultimo pezzo Banks con il pezzo Before I Ever Met You. Don't work out. You bring out the mean in me, I bring out your insecurities. You know what I'm talking about. Eventually you'll be fine if we break up, and one day I'll be fine. Should just end it now before someone gets more hurt than they have to. As for our house, I'll move out. You can keep the dog we train. Things soon will be like before. Before I ever met you, I never knew that my heart could love so hard. Before I ever met you, I never knew I would be enemies with disregard. Before I ever met you, I never knew that I liked to be kissed for days. Before I ever met you, I never knew I could be broken in so many ways. Yes. I never knew I could be broken in so many ways. Yes, I never knew I could be broken in so many. Everyone knows I'm right about one thing. You are my only vice. And I got you addicted to trying to be bulletproof, but you had too much to lose. As for our house, I'll move out. You can keep the dog we trust.